In ottobre il re si era ripreso completamente. Il 26 il principe Chulalongkorn avrebbe lasciato il noviziato per tornare a palazzo. Era stato deciso che Anna gli avrebbe insegnato ogni sera dalle 7 alle 10 nella sua nuova casa, dal momento che non avrebbe più potuto frequentare la scuola nel tempio. Il re era impegnato con gli ultimi preparativi della mostra di arte siamese da mandare a Parigi. All'inizio di novembre il signor Daniel Winsor, un mercante francese, e diversi nobili siamesi sarebbero partiti da Bangkok al seguito della spedizione. Era la prima volta che il Siam prendeva parte a qualcosa del genere. L'ultimo giorno di ottobre, tutta la corte con le favorite della famiglia reale, Anna e Louis, partì per Phetchaburi. La città si trovava a circa 150 km a sud-est di Bangkok, su un fiume che portava lo stesso nome. La campagna intorno era molto più pittoresca di quella della capitale. Catene di basse montagne correvano da nord a sud, sfumando verso l'orizzonte, e sulle vette e nelle valli si stendevano foreste di alberi luminosi. Tra le montagne e il golfo del Siam si allargava una pianura simile a una coperta patchwork, con quadrati coltivati a riso cuciti accanto a campi di betel e di palme in varie sfumature di verde, giallo e oro. Il re aveva fatto abbattere gli edifici fatiscenti sulla strada principale della città, che si era trasformata in un ampio viale lungo quasi un chilometro, affiancato da negozi in mattoni come quelli di Singapore. Sulla montagna reale, vicino alla città, aveva fatto costruire un palazzo elaborato. 500 schiavi ci lavoravano da 10 anni e continuavano ad apportare migliorie. Sulle vette delle montagne vicine c'erano templi e prakedis, e degli operai vi stavano allestendo dei giardini. Il principe Chulalongkorn, Anna e Louis amavano passeggiare sulla montagna, lungo le gole e tra le foreste, raccogliere fiori selvatici e visitare le sorgenti calde, le cave e le grotte. Tutta la corte passò 2 settimane felici. Anna al mattino insegnava a scuola e passava i pomeriggi in esplorazione con il principe e Louis. In tutto il Siam nessun altro luogo le era mai piaciuto così. La vita era rilassata e semplice, l'aria più fresca e più pulita di quella di Bangkok. Fu lieta quando il re decise che si sarebbero fermati altre 2 settimane. Mentre andava a letto, quella sera Anna cantava felice. Erano le 3 del mattino quando fu svegliata dal suono della campana a martello e del gong. Le trombe suonavano sulle colline lontane e riecheggiavano dalle pietre come i lamenti dei dannati. Nel palazzo reale le luci erano accese. Fantasmi che reggevano torce sbucavano da porte buie e si agitavano tra gli alberi. Portantine e uomini a cavallo avanzavano lungo i sentieri. Le torce erano sorrette dalle amazzoni che erano state mandate a svegliare tutti. La corte sarebbe tornata a Bangkok entro un'ora. Ma perché? Chiese Anna profondamente delusa. Il re mi ha detto proprio oggi che ci saremmo fermati per altri 15 giorni. Ma le amazzoni rifiutarono ogni spiegazione. Ha un'ora per prepararsi, fu tutto quello che dissero. Sua maestà ha ordinato che tutti tornino a Bangkok stanotte. Non venne data nessuna spiegazione durante il ritorno, nemmeno sulla nave. Sua maestà lo aveva ordinato, questo bastava. 3 giorni dopo Anna era di nuovo sistemata nella casa di Bangkok e ripensava con tristezza alle cime delle montagne di Phetchaburi con la loro aria fresca e il bel panorama. Il mattino seguente Anna e Louis si prepararono a riprendere la routine della scuola. Mentre camminavano verso il cancello, videro un gruppo di persone che leggevano con concentrazione enormi manifesti scritti in siamese, pali, cambogiano e birmano, affissi lungo i muri del palazzo. Anna poteva leggere il siamese e il pali, ma questi caratteri erano così elaborati che non li capiva. Chiese che cosa diceva il proclama, ma la gente aveva una tale paura anche solo a nominare i reali che nessuno rispose. Le donne a cui si rivolse la guardarono in modo strano e si allontanarono di corsa. Anna si chiese se avesse qualcosa a che fare con i proclami. Le era parso che i suoi rapporti con il re fossero buoni. Restavano le divergenze sulla schiavitù e la poligamia, come era stato fin dall'inizio. Ma no, non poteva trattarsi di quello. La scuola era deserta. Attese per un'ora finché fu chiaro che i figli del re non sarebbero venuti. Allora Anna si diresse da Lady Tiang, la quale fu ancora più misteriosa dei geroglifici sui muri. Osservò Anna con curiosità e scosse la testa con solennità. Poi la tastò dappertutto come per assicurarsi che fosse fatta di carne e ossa, come lei. Mem Cha, le chiese con aria grave, ha mai praticato la magia o la stregoneria? Era una domanda così inattesa che le labbra di Anna tremarono di una risata incontrollabile. Certo che no! Che domanda buffa, perché lo chiede? Lady Tiang si mostrò offesa e disse rigida: Mem, non è un argomento su cui ridere. È mortalmente serio, forse per lei e per me. Mentre eravamo a Pechiaburi, a palazzo, è comparsa una temibile fattucchiera. Nessuno sa chi sia, nessuno ha visto niente di insolito, ma all'improvviso, anche se tutte le porte erano sbarrate e vigilate come sempre, e nessuno è entrato né uscito, la principessa di Chiang Mai è svanita nella notte. Nessuno sa come, nessuno sa dove. Quando le Amazzoni hanno aperto la porta della cella, hanno trovato al suo posto una schiava sordomuta con cui la strega l'aveva sostituita. Giace sul letto della principessa come una scema, non sa niente e della principessa non c'è più traccia. Anna fu colta completamente di sorpresa. Mai pia! Ricordava le sue ultime parole. Devo fare qualcosa per salvarla, anche se dovessi morirne. Bene, aveva fatto l'impossibile, ma come? Aveva scelto bene il momento con il re fuori città e la vigilanza sull'harem in qualche modo allentata. Comunque andava oltre l'immaginazione di Anna capire come aveva portato la sua padrona fuori dalla prigione e dai cancelli del palazzo. Nessuna meraviglia che Lady Tiang pensasse che fosse opera di una strega. Vorrei, esplose Lady Tiang con un'espressione del viso molto intensa. Oh, vorrei che si potesse esorcizzare questa ragazza e farla parlare, così potremmo sapere com'è successo, che aspetto aveva la vecchia strega e chi era. E allora potrebbero catturarla, e lei ed io saremo al sicuro. Mem Cha, temo per la mia vita e per la vita dei miei bambini. Anche le pietre di questa triste città mi riempiono di terrore e di orrore, e lo sa. Chiese con gli occhi sbarrati, via via che il suo terrore aumentava, che lui si è chiuso nella sua stanza più alta, con le guardie a ogni porta e finestra per tenere lontano le persone sospette, perché la strega potrebbe ancora girarsi sotto sembianze umane. A nessuno è permesso entrare se non a una vecchia dottoressa, Kun Mo Prang. Lei porta i pasti e il re non uscirà finché il palazzo e l'intera città non saranno stati esorcizzati. E domani non ci sarà scuola. Me ne ero quasi dimenticata, perché ha ordinato che i suoi figli rimangano chiusi in casa fino a mezzogiorno. I preti bramini esorcizzeranno la città al mattino e nel pomeriggio i monaci buddisti la purificheranno con incenso e spruzzeranno le case e i muri e tutti noi con acqua sacra. Anna tirò un piccolo sospiro di sollievo. Una causa naturale per la scomparsa della principessa non sembrava essere venuta in mente alla prima moglie né al re. Se quello che diceva Lady Tiang era corretto, Anna fu confortata al pensiero di quanto fosse radicata la convinzione che la sparizione della principessa fosse da attribuirsi a cause naturali, a cause soprannaturali. Lady Tiang continuò nervosamente a dire ad Anna che gli astrologi di corte stavano cercando di sciogliere il mistero e che erano state promesse grosse ricompense se fossero riusciti a fare luce. Per ultimo, le due prigioniere laotiane e il demone sordomuto sarebbero stati esorcizzati ed esaminati dal tribunale ecclesiastico e dai saggi del paese. La prima moglie affondò la faccia nel cuscino e pianse, terrorizzata. Anna cercò di consolarla, ma inutilmente. Aveva paura che durante il processo i suoi piccoli sforzi per alleviare le sofferenze della principessa sarebbero stati smascherati e che sarebbe stata messa in rapporto con la sua scomparsa. La sola cosa che Anna poté prometterle, che parve consolarla, era che si sarebbe presentata lei stessa al tribunale ecclesiastico e che sarebbe stata presente all'esorcismo e che sarebbe tornata a palazzo per riferire a Lady Tiang quello che era stato detto e fatto. Il mattino seguente, il 20 novembre 1866, Anna si mise in viaggio a cavallo. L'accompagnava uno stalliere indiano. Era riuscita a sapere che le tre figure centrali del caso, ancora intontite dall'aria fetida dei buchi umidi in cui erano state gettate, erano state prese dalle loro celle e portate lungo le strade silenziose della città ancora addormentata. Solo dopo aver liberato il palazzo dalla presenza delle loro persone contaminate si poteva procedere al lavoro di purificazione. Poiché tutto questo doveva essere concluso prima del processo, Anna aveva davanti parecchio tempo. Era il mese più piacevole dell'anno e il sole del mattino brillava senza essere troppo caldo. Lei cavalcò verso il muro a nord-est della città fortificata, godendosi l'aria profumata e l'andatura lenta del cavallo. Il settore in cui entrò apparteneva ai bramini a cui era stato assegnato dai re del Siam quando era stata costruita la città. Non si vedeva nemmeno un edificio moderno. Alla fine arrivò il tempio di Wat Bawoniwet, dove si trovava il tribunale in cui doveva avvenire l'esorcismo. In parte il tempio era nuovo e in parte molto vecchio, con muri macchiati e alberi enormi soffocati da piante parassite. Una profonda e stretta vallata, al fondo della quale scorreva un minuscolo torrente su un letto di sassi, era attraversata da un ponte di pietra annerito dal tempo. Anna fermò il cavallo sul ponte e guardò in giù verso l'acqua. Gli argini ripidi erano coperti di erba e ginestre. C'era un'atmosfera solitaria e tetra, forse a causa delle ombre degli alberi. In fondo alla valle si trovava un vecchio tempio in onore di Prakan, dio della morte. Dietro di esso, come un'ombra frastagliata, scuri anche nel sole più luminoso, c'erano i tetti anneriti degli edifici monastici degli asceti bramini. Anna scese da cavallo e consegnò le redini allo stalliere. «Tieni il cavallo fuori dai giardini del tempio fino a quando sono pronta per tornare a casa», disse lei, e si sedette sul ponte ad aspettare. L'uomo si allontanò, ma dopo un quarto d'ora tornò con olio, fiori freschi e carne. Legò il cavallo ed entrò nel tempio con le offerte. Anna lo seguì. C'erano molti dei nel tempio e lui si prostrò davanti a tutti. Anna prese il blocco di carta e la matita che aveva portato e iniziò a fare schizzi e disegni. Il tempio era dedicato a Kali, come il Kaligat di Calcutta. Quanto tempo era passato da quando lei e Leon vi si erano recati? C'era qualcosa di incantato e demoniaco in quel tempio, come lì. Il viso nero della dea era sormontato da lunghi capelli simili a innumerevoli serpenti. Una lingua rossa protrudeva dall'orribile bocca. L'espressione degli occhi era strana, quasi di pazzia. Aveva quattro braccia, in una delle quali teneva stretto un coltello. Nella seconda aveva la testa di un uomo, nella terza un loto e nella quarta una ruota. Attorno al collo erano appesi i crani delle vittime assassinate e lei si reggeva sul corpo di un adoratore prostrato che urlava le sue lodi mentre lei lo schiacciava a morte. Quanto tempo era passato e com'era vivo il ricordo nella sua memoria. Anna sospirò e uscì nell'aria fresca. Girovagò nel boschetto, ma non c'era molto altro da vedere. La processione non era ancora arrivata e lei cominciò ad avere fame. Chiamò lo stalliere e lo mandò al villaggio a prendere una brocca di latte e un pezzo di pane dolce. Poi lo mangiò seduta all'ombra profonda del tempio e degli alberi. Aveva appena terminato che udì la musica e il rumore di tamburi. Si affrettò nella direzione da cui il suono sembrava provenire e vide una strana processione che si avvicinava. C'erano delle vecchie vestite di scarlatto e di giallo, vecchi dalla testa grigia, vestiti con ogni tipo di antico costume. Alcuni erano a piedi, altri a cavallo, e portavano bandiere ricamate che si agitavano al vento. Al centro, vestiti di nero e vermiglio, a cavallo di muli bianchi, c'erano 20 uomini e donne, alcuni molto giovani, altri estremamente vecchi, che avanzavano con lentezza e solennità. Erano gli astrologi reali, maghi e maghe alle dipendenze della corte che ricevevano il salario dalla corona. Anna non li aveva mai visti tutti insieme prima, anche se in diverse occasioni le erano stati mostrati alcuni con reverenza. Erano tutti indù, o se di sangue misto, come era probabile, avevano adottato i costumi e la religione indù. Per ultimi venivano alcuni facchini cinesi assunti per l'occasione che portavano due scatole e due lunghe assi. Sarebbero state usate nel rituale? Si chiese. Era più probabile che fossero quelle usate da Maipia per trasportare la principessa fuori dal palazzo. Nella scia della processione c'era un gruppo eterogeneo di siamesi ben vestiti e una folla di schiavi sbrindellati. Il processo si sarebbe tenuto nella sala grande con il soffitto che cadeva a pezzi. Nonostante lo stato di abbandono, aveva una forte somiglianza al meraviglioso tempio di Angkor Wat, anche se in scala molto più ridotta. Anna uscì dall'ombra profonda sotto gli alberi e si sistemò su una colonna di pietra rotta. Sopra sempre al riparo dagli alberi, ma abbastanza vicino alla sala da poter vedere e capire chiaramente. Appena la processione entrò dal portale del tempio, si fermò. Gli uomini e le donne alzarono le mani e le congiunsero sopra la testa, ripetendo le parole di Krishna: O tu che sei la vita di tutte le cose, il seme eterno della natura, la comprensione del saggio e la debolezza del folle, la gloria dell'orgoglioso e la forza del potente, il sacrificio e l'adorazione, l'incenso e il fuoco, la vittima e il carnefice, il padre e la madre del mondo, oggi investi i tuoi servi di potere e saggezza perché annientino il carnefice e vincano il traditore. Poi marciarono nel tempio al ritmo della musica e offrirono i sacrifici di vino e olio, dolci di grano e fiori. Con gli occhi alzati al soffitto scuro a volta, pregarono di nuovo chiamando Brahma, il padre, il consolatore, il creatore, la tenera madre, la via sacra, il testimone, il rifugio, l'amico dell'uomo, perché illuminasse con la luce della sua comprensione i loro deboli intelletti e riconoscessero il demonio e lo vincessero. Solo alla fine delle lunghe preghiere gli astrologi, i maghi e le maghe presero posto nella sala. Due ufficiali avanzarono con una lettera del re. Erano il giudice della Corte Suprema, Pia Prom, e il suo segretario, che avevano il compito di fare un resoconto per il re. Quando questi si furono seduti, vennero portate le prigioniere, Maipia e le due ancelle della principessa, che furono sistemate in fondo alla sala, controllate da 50 amazzoni, mentre i soldati si sparpagliavano nell'edificio. Il silenzio era assoluto. La strana assemblea si guardava in giro con timore, come se Maipia fosse una strega. Le tre prigioniere sedevano immobili, aspettando con indifferenza di udire la loro sorte. Il demone sordo muto era mortalmente pallido, i suoi occhi brillavano di una strana luce quasi insana o forse di intensa sofferenza. Anna era agitata. Perché il processo non iniziava? C'erano le scatole, le assi. Vide che nelle assi erano intagliate delle piccole nicchie abbastanza profonde da permettere a una persona agile di arrampicarsi in punta di piedi. Evidentemente Maipia le aveva usate per scalare il muro. Ma anche così non era un'impresa facile. Come era riuscita a sollevare le assi oltre il primo muro in modo da servirsene ancora per il muro interno? E come era fuggita non vista? Come aveva portato la principessa, indebolita dalla lunga reclusione, oltre il muro? Anna si voltò verso un soldato che stava in piedi lì vicino e gli chiese come mai il processo non avesse inizio. Stanno aspettando l'uomo sacro dei boschi, spiegò. Hanno suonato il corno 3 volte per chiamarlo, ma non è ancora arrivato e non daranno inizio al processo finché non arriva, indipendentemente da quanto ci sarà da aspettare. Dopo un'ora di attesa, sulla riva opposta del torrente, comparve un uomo. Rimase un momento in piedi mentre osservava e ascoltava con l'intensità di un cervo, poi si tuffò nel fiume e ne emerse dal lato del tempio. Indossava solo un perizoma. Il sottile corpo scuro era muscoloso e scattante e i capelli lunghi e arruffati. Si scrollò l'acqua di dosso come un cane e venne verso la sala dove si sedette timidamente vicino alle prigioniere. Anna lo vide bene. Aveva un bel viso, sensibile e gentile, e la testa era nobile nonostante i capelli incolti. Il soldato sussurrò ad Anna con rispetto: Gli occhi di quest'uomo sono aperti, così che può vedere cose che i maghi pagati del palazzo non possono vedere. Questo è il motivo per cui lo invitano ad aiutarli nelle indagini spirituali. Il processo iniziò. Il giudice lesse la lettera del re, che parlava della misteriosa e importante natura dell'accusa fatta contro persona o persone sconosciute che avevano sottratto dal palazzo un prigioniero dello Stato. Una signora di alto rango e di grande integrità. Era compito dell'assemblea fare del suo meglio per svelare il mistero e trovare i colpevoli. Dopo che la lettera del re ebbe ricevuto il tradizionale saluto, 3 profondi inchini da parte dell'assemblea, il giudice ordinò alle 2 amazzoni, che erano di guardia alla porta della prigione quando la principessa era scomparsa, di parlare. La notte del 5º giorno della luna crescente del 12° mese si alzò improvvisamente un forte vento che spense le nostre lanterne, lasciandoci nel buio più totale. Subito dopo ci rendemmo conto che una grande figura avvolta in un velo nero era entrata nella sala. Mentre si avvicinava, vedemmo che aveva dimensioni sovrumane e che portava uno spadino in una mano e un grosso mazzo di chiavi nell'altra. Continuarono spiegando che l'orrore nel quale precipitarono le privò della parola e del movimento e che non riuscirono nemmeno ad alzare un dito, per quanto era potente l'incantesimo che era stato gettato su di loro. Mentre questa creatura potente, col suo spadino scintillante, incombeva su di loro, una orribile luce brillava intorno a lei. A questo chiarore lei procedette fino alla cella in cui stava la principessa Sunatda, aprì la porta con una delle sue chiavi misteriose e portò via la principessa trascinandola per la mano. Poi la luce scomparve e una doppia tenebra cadde su di loro, facendo piombare la prigione in un buio sepolcrale. Dopo circa 2 ore, mentre loro erano ancora paralizzate e incapaci di muoversi, la strana figura ricomparve, pallida e più orrenda di prima, ma senza la spada, né il velo, né il mazzo di chiavi. Passò loro accanto rapidamente e si chiuse la porta della prigione alle spalle con tanta forza che il cigolio dei cardini sembrò un grido di dolore. Subito dopo furono chiamate le due ancelle laotiane della principessa. La loro storia fu breve. Nella quinta notte di luna crescente fummo svegliate dalla porta della cella che sbatteva. Quando guardammo verso il letto dove dormiva la principessa, vedemmo seduta una figura. Chiamammo la principessa, ma lei non rispose, quindi accendemmo la lampada e scoprimmo che la nostra padrona se n'era andata. La schiava muta era seduta sul letto. Scappammo via, urlando inorridite, perché avevamo paura che potesse trasformare anche noi in qualcosa di innaturale. Per Anna era chiaro che le amazzoni credevano alla storia che avevano raccontato e in questo c'era un po' di speranza per Maipia. Erano così spaventate e così vividamente impressionate dall'apparizione che erano pronte a giurare solennemente che si trattava di un essere soprannaturale 2 volte le dimensioni umane e diversa dalla schiava sordomuta che avevano davanti. Poi venne chiamata Maipia. La luce innaturale di dolore, pazzia o frenesia sembrava bruciare ancora di più nei suoi occhi. Il rozzo abito marrone era cosparso qua e là di macchie più scure e il suo viso sembrava perdere colore ad ogni minuto. Gli esaminatori le posero una domanda dopo l'altra, così i maghi e le maghe. Non rispose. Le sue labbra, pallide come la cenere, sembrava fossero state chiuse da una forza soprannaturale. Anna ricordò la sua loquacità e la canzone appassionata con cui era riuscita a ottenere la prova dell'amore del secondo re per la sua padrona. Che cos'era successo alla sua eloquenza? Di certo era in grado di inventare una storia che avrebbe ingannato questo pubblico credulone, preparato dalla testimonianza delle amazzoni ad accettare il soprannaturale. È possibile che stia recitando? Si chiese Anna. Ne dubitava, a meno che fosse stata pesantemente drogata. Ad un segnale venne improvvisamente suonato un gong appena dietro la schiava. Tutta l'assemblea si girò e Maipia, colta di sorpresa, volse la testa in direzione del suono. «Ah!» gridò Pia Prom con aria di trionfo. «Non sei sorda, puoi sentire perfettamente e probabilmente puoi anche parlare!» Immediatamente Maipia venne privata della simpatia che era stata diretta a tutte le supposte vittime dell'incantesimo. Ma lo Yogi alzò le braccia nude. «Perdona! Perdona!» gridò con un tono così imperioso che echeggiò in tutto il tempio e immobilizzò tutti. Si voltò verso Maipia e posò le enormi mani ossute sulle spalle della ragazza. Le sussurrò qualcosa all'orecchio che sembrò commuoverla perché alzò verso di lui occhi pieni di lacrime. Poi lei scosse tristemente la testa, mise un dito sulle labbra come a spiegare che non poteva parlare. Una espressione di comprensione passò sul viso scuro dello Yogi. Si girò verso l'assemblea e disse: «Questa donna non è una strega, non è nemmeno ostinata, non può parlare perché è vittima di un incantesimo». Di nuovo tutti i sentimenti furono a favore della prigioniera. «Allora lasciate che la esorcizziamo», disse Pia Prom, accettando il giudizio dello Yogi senza fare domande. A questo punto la donna che Anna aveva individuato come la più strana tra tutto il gruppo, una donna vecchia senza denti, tolse dal corsetto una chiave e aprì le scatole di legno. Da queste prese un incensiere non diverso da quelli usati dagli antichi egizi, preparò degli intrugli e ripeté formule magiche mentre faceva comparire una stufa di terracotta e del carbone. Coprì la prigioniera con un velo e con sommo orrore di Anna le versò addosso il carbone bollente. Le altre donne ballavano intorno e alla fine le rovesciarono addosso delle brocche d'acqua ripetendo il nome di Brahma. ma Epia fu rivestita con abiti freschi senza che la sua persona fosse scoperta. Lo Yogi le posò le mani sulle spalle e le sussurrò qualcosa all'orecchio, ma Maipia continuava a scuotere la testa e a indicare le sue labbra sigillate. «Apritele la bocca e versatevi acqua magica», suggerì una saggia. Furono tutti d'accordo e molti si avvicinarono. Quando la bocca le venne aperta, indietreggiarono inorriditi, gridando «Brahma! Brahma!» «Cosa succede?» gridò Pia Proma alzandosi dal suo posto. Una donna si voltò verso di lui con il viso verde, come malato. «Brahma, Brahma, il maligno le ha strappato la lingua!» Scoppiò un pandemonio. Subito Maipia cessò di essere oggetto di paura per diventare oggetto di pietà e suscitare addirittura adorazione. Il cambiamento fu così repentino che molti piansero al pensiero della terribile mutilazione a cui il maligno aveva assoggettato la ragazza. In tono lento e grave, fu posta la domanda finale. Aveva avuto effetto l'esorcismo? Una piccola candela fu accesa e messa nell'incensiere della donna. Tutta l'assemblea la seguì in riva al fiume per vederla lanciare. L'incensiere galleggiò sulla corrente, mentre la debole luce bruciava senza nemmeno un tremito. Lo Yogi lanciò un grido di piacere e tutti fecero eco soddisfatti. Secondo le istruzioni del re, il processo fu rapidamente portato a termine. Le prigioniere furono prosciolte dall'accusa di complicità con il diavolo per il rapimento della principessa. Ognuna ricevette una somma di denaro e venne liberata. Le assi, prova che qualcuno aveva scalato il muro, non furono nemmeno menzionate mentre tutti se ne andavano a casa, non più in processione, ma ognuno per la sua strada. Furono dimenticate dove le aveva posate, dove le avevano posate i facchini. Intanto era arrivato il tramonto. Anna mandò a casa lo stalliere e rimase sotto l'albero a cui era stato legato il cavallo. Lo Yogi riattraversò il torrente a nuoto verso la solitudine della sua caverna sconosciuta a dormire di giorno e pregare di notte. Le donne, emozionate, attorniavano ancora Maipia. Alla fine se ne andarono e la schiava, che era rimasta seduta sul pavimento come intorpidita, si alzò e uscì. Vide Anna sotto l'albero e corse verso di lei. Si buttò tra le sue braccia e appoggiò la testa sulla sua spalla. Emise dei suoni penosi che dapprima Anna interpretò come grida di dolore, ma che, quando Maipia rialzò la testa, capì che esprimevano gioia. Non c'era altro che felicità sul volto della schiava. Anna era scioccata nel vedere quello che Maipia aveva sopportato per salvare la sua padrona e poté solo abbracciarla con la tenerezza che una madre prova per un figlio coraggioso e temerario. Al ricordo che la principessa le aveva detto che Maipia era la musicista più raffinata del nord, non riuscì a trattenere le lacrime. Quelle labbra esangui non avrebbero cantato mai più. Le sue due amiche le raggiunsero e, sussurrando, raccontarono ad Anna il resto della storia. Maipia aveva scalato il muro con le assi, sollevandole poi sopra il primo muro per usarle per superare il secondo. Aveva studiato il palazzo con attenzione e per entrare aveva scelto un angolo buio tra due cancelli dalla parte del fiume. Prima si era munita di un grosso mazzo di chiavi, non sapevano come. Aveva aperto le porte della prigione e terrorizzato le amazzoni. Il vento che aveva spento le lanterne era stato un colpo di fortuna. Grazie alle domande che aveva fatto ad Anna, era stata in grado di raggiungere subito la cella in cui si trovava la principessa. Era vero che aveva dovuto trascinarla con la forza. Dopo averla aiutata ad arrampicarsi sul muro, si era seduta in cima al muro esterno finché aveva visto la principessa al sicuro dall'altra parte. Il principe e i suoi due amici aspettavano in una barca sulla riva del fiume. Alla luce della luna non avevano avuto difficoltà a non farsi notare. Maipia aveva gettato le chiavi alla principessa perché le buttasse nel fiume. Invano il principe e la principessa l'avevano implorata perché si unisse a loro. Si era rifiutata di lasciare le due ancelle sole ad affrontare il pericolo. Così, alla fine, temendo di essere scoperte e incapaci di convincere Maipia, si erano allontanate sul fiume. Una piccola nave li aspettava alla foce per portare la principessa, il fratello e i suoi amici a Moulmein. Maipia aveva temuto che le torture potessero costringerla a confessare la verità, quindi con un colpo di spada si era privata della capacità di emettere in futuro un suono intelligibile. «Ma perché non siete andati tutti con la principessa?» chiese Anna alle donne. «Perché eravamo troppe», risposero, «e ci avrebbero sicuramente scoperte. Maipia aveva promesso di non abbandonarci». Non c'era altro da dire e nulla che Anna potesse fare per loro. Sarebbero andate a Paklat lungo il fiume e da lì avrebbero preso un'altra imbarcazione per Moulmein, dove avrebbero raggiunto la principessa.